Ha detto il revisore, sì, il nome di questo segno è Deleatur. Lo usiamo quando abbiamo bisogno di sopprimere e cancellare. La parola stessa lo dice, e vale sia per le lettere singole che per le parole intere. Mi ricorda un serpente che si fosse pentito al momento di mordersi la coda. Ben detto, dottore. Davvero, per quanto siamo aggrappati alla vita, perfino una serpe esiterebbe dinanzi all'eternità. Mi faccia il disegno, ma lentamente. È facilissimo. Basta prendere il verso. Guardando distrattamente si pensa che la mano stia tracciando un terribile cerchio. Invece no. Noti che non ho chiuso il movimento qui, dove l'avevo incominciato. Ci sono passato accanto, all'interno. E adesso proseguirò verso il basso fino a tagliare la parte inferiore della curva. In fondo sembra proprio la lettera Q minuscola, niente di più. Che peccato. Un disegno che prometteva tanto. Questo era l'incipit de La storia dell'assedio di Lisbona, di José Saramago. L'inglese Jim Noir da un villaggio appena fuori Manchester con Don't You Worry, questo è il brano che si è appena chiuso, prima ancora Young Lords con Rodeo Songs e ad aprire l'intera seconda parte dal vivo Colin Meloy, il leader dei Decemberists che esce con un album live solista We Both Go Down Together, questo è il titolo del pezzo. Sono i tre brani che avete già sentito nella seconda parte di Eclettica, seconda parte che va in onda più o meno fra le 19:30 e le 20, sempre che l'ascoltiate sulle frequenze radiofoniche. Se vi avvalete del podcasting, invece, lì l'orario lo decidete voi. Tutti i dettagli su myspace.com/eclettica, da tenere come riferimento anche fra qualche settimana, quando di Rock FM potremo parlare solo al passato. Pterodactyl, questo è il nome della formazione, un trio che proviene da Brooklyn, che è uscito a fine 2007 con un disco intitolato Blue Jay per l'etichetta Bra Records, dal quale vado ad estrarre SS. Resting onto H's, less. That's nice. Make sure to secure the door when I'm gone. There are many dangerous people who want to take things from Americans and also kidnap them. Good night. Il giorno seguente non morì nessuno. Il fatto, poiché assolutamente contrario alle norme della vita, causò negli spiriti un enorme turbamento, cosa del tutto giustificata. Ci basterà ricordare che non si riscontrava notizia nei 40 volumi della storia universale, sia pur che si trattasse di un solo caso per campione, che fosse mai occorso un fenomeno simile. Che trascorresse un giorno intero, con tutte le sue prodighe 24 ore, fra diurne e notturne, mattutine e vespertine, senza che fosse intervenuto un decesso per malattia, una caduta mortale, un suicidio condotto a buon fine, niente di niente, zero spaccato. Questo era l'incipit delle intermittenze della morte di José Saramago. 1, 2, 3, 4, 1, 2. It's been one too many mornings sleeping on my own, but I've seen the light and I'll be coming home to you. One of these mornings, and I'll be sleeping next to you that night. Yeah, I'll be sleeping next to you that night. It's been one too many mornings sleeping on my own, but I've seen the light, and I'll be coming home to you one of these mornings, and I'll be sleeping next. Questa è una settimana un po' particolare, non solo perché è la prima in cui si ha, per così dire, la consapevolezza della fine, ma è anche la settimana in cui in Eclettica si sta avendo un film al giorno dal quale estrarre gli spazi cinematografici. Non so se sarà così anche per il resto della settimana, ma fino ad oggi è stato così, con Fargo ieri e Everything is Illuminated oggi. Sono anche diversi gli autori che siamo andati a prendere per leggere negli incipit. Sto leggendo José Saramago, ho già letto Saviano e McCarthy, e probabilmente si aggiungeranno anche altri autori. Per quanto riguarda invece la musica, quella che ci siamo ascoltati nei minuti trascorsi e quella che sta per venire per chiudere l'intero volume numero 3, vi devo ricordare che vi siete appena sentiti Brad Brick con One Too Many Mornings Anthem, e prima ancora i Grand Archives Sub Pop. Torn Blue from Coach è il titolo del pezzo uscito per la band e per l'etichetta di Seattle. Si rimane negli Stati Uniti a chiudere con un duo che è speculare rispetto ai White Stripes, perché lei si occupa di voce e chitarra e lui si occupa della batteria. Loro si chiamano Mr. Gnome, usciranno a maggio con Deliver This Creature, e questa è Pirate. Vegetarian. You're a what? I don't eat meat. Pork? No. Chickens? No. And what about the sausage? No meat. What is wrong with you? Eclettica. Ultima stagione. Settimana numero 21. Volume numero 3. Indice. Get Well Soon. Don Cavalli. Dark Meat. Space Bobby e Madame X. Colin Malloy. Young Lords. Jim Noir. Pterodactyl, Grand Archives, Brad Brick, Mr. Gnome. Cari amici, il vostro programma è terminato. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora. Cari amici, il vostro programma è terminato. Arrivederci.